Hashtag autotrasporti. Hashtag autotrasporti, buon pomeriggio da Andrea Ferro. Il pacchetto stradale, cioè il quadro di norme e indicazioni al quale dovranno fare riferimento tutti i paesi comunitari in materia di trasporti su strada, dovrebbe prendere forma con l'anno che verrà. Il condizionale quanto mai d'obbligo, visto che finora la strada, è il caso di dire, è stata assai accidentata e i tempi di percorrenza si sono rivelati incertissimi. Su alcune questioni la frattura tra i due blocchi, da una parte la vecchia Europa, dall'altra i paesi dell'est, resta netta e di difficile ricomposizione. Ma certo non c'è più tempo da perdere, visto che la mancanza di regole sta sconvolgendo il settore. Il pacchetto stradale dovrà essere definito dalla Commissione Trasporti di Bruxelles. Massimiliano Salini ne è uno dei componenti. Al nostro microfono riassume i punti salienti sui quali si svilupperà la discussione. Gli elementi essenziali su cui si dovrebbe giocare la partita del pacchetto strade sono legati al solito tema del funzionamento del mercato interno, che è il grande punto che costituisce un po' la base di tutti i pacchetti rilevanti come quello ferroviario e quant'altro. Il tema poi della armonizzazione delle norme sociali, quindi il tema caldissimo delle condizioni di lavoro, delle retribuzioni e via discorrendo, che ha alimentato e continua ad alimentare forti tensioni soprattutto tra Est Europa e paesi forti, anche più forti economicamente, come Germania, Italia e Francia. Terzo grande tema è quello sempre più rilevante e trasversale, che è quello della decarbonizzazione. E il quarto punto dovrebbe essere, anche sul pacchetto strade, vedremo come, tutta la partita della digitalizzazione. Il nodo da sciogliere più intricato quindi è quello che riguarda l'autotrasporto, dilaniato da una competizione giocata su presupposti che non garantiscono condizioni di partenza eque e generano il cosiddetto dumping sociale. Il fenomeno è quello che incrociamo quotidianamente sulle nostre autostrade, lungo le quali sono sempre di più i mezzi pesanti con targa straniera, in particolare immatricolati nei paesi dell'est, ma non solo. Riprendendo la metafora, è da questo punto che la strada si fa decisamente in salita. In questo momento il lavoro su quella partita è tutto da costruire. Siamo all'inizio proprio di una discussione che rimane all'inizio da diversi anni, perché già non ci intendiamo sul concetto di dumping sociale, cioè già non abbiamo un punto di incontro nemmeno sulle definizioni. E poi c'è la realtà è fortissimamente invasiva, diciamo, dal punto di vista della dinamica delle trattative politiche, perché oggi chi realmente fa i conti o vuole fare i conti col mondo dell'autotrasporto sa che l'Europa è stata completamente, usiamo un termine brutto, lo mettiamo tra virgolette, però invasa per ragioni ovvie da trasportatori dell'est che da Polonia, da Romania, da altri paesi dell'est arrivano in tutta Europa e lavorano a condizioni, come noto, di retribuzione molto diverse da quelle nostre, e quindi costituiscono un elemento di, chiamiamola distorsione, chiamiamola interferenza legittima ma comunque problematica da gestire. Certo è che sul piano della concorrenza con altri trasportatori italiani, tedeschi, francesi, olandesi e quant'altro, la presenza sul mercato di lavoratori che lavorano alla metà della retribuzione, anche meno, costituisce un fatto complesso da gestire. Ci abbiamo avuto casi drammatici in Italia molto recentemente. C'è un problema di sicurezza, c'è un problema di mantenimento di una professione che è determinante. A fronte di posizioni che, da quello che abbiamo sentito, restano distantissime, per effetto delle quali il pacchetto stradale stesso è finora rimasto al palo, c'è un precedente al quale agganciare le possibilità di trovare un'intesa. Ce lo spiega ancora l'europarlamentare Massimiliano Salini. Si dovrebbe trovare, si dice sempre, una sorta di equilibrio, così come è stato trovato sul tema dei marittimi, dove si è trovata una armonizzazione con una sorta di retribuzione media europea che ha accontentato un po' da una parte, scontentato un po' dall'altra, ma ha trovato un punto di equilibrio che ha bloccato la discussione. Vediamo. Il settore della logistica sta vivendo una fase di profonda trasformazione indotta anche e non solo dalle opportunità offerte dalla tecnologia. Cambiano gli scenari globali, si modificano le rotte delle merci, si affinano le modalità organizzative sulle quali si giocano le posizioni di mercato, anche nel nome di concetti e principi ormai inderogabili, a partire per esempio dall'esigenza di operare nel segno della sostenibilità ambientale. Per gestire questo processo occorrono nuove figure professionali, profili cioè calibrati sulle competenze specifiche che le nuove realtà richiedono. Va in questa direzione il progetto europeo FrameLog, coordinato dal Dipartimento di Economia e Management dell'Università di Pisa e al quale aderiscono vari partner italiani e stranieri. Il responsabile del progetto è il professor Marco Giannini, che così ci spiega qual è l'obiettivo di FrameLog. È quello di, diciamo, da un lato individuare il profilo delle competenze presenti, anche ovviamente future, che interessano oggi il settore della logistica. Quindi quali sono le competenze professionali, sia tecniche che specialistiche, che gestionali, che trasversali, che il mondo della logistica oggi chiede e chiederà anche nel prossimo futuro. Dall'altro fare un'analisi di quella che è la situazione attuale nel campo della formazione, perché oggi si fa formazione sulla logistica in vari contesti, partendo dalle scuole superiori, passando all'università, andando ai master, andando a varie iniziative di formazione. Il problema è quello di capire in che misura esiste un gap tra questi due mondi, cioè sostanzialmente tra quello che le competenze che la logistica oggi chiede e le professionalità che il mondo della formazione sono in grado di offrire. Quindi l'obiettivo è quello sicuramente di definire e certificare le competenze professionali anche ai fini di migliorare le professionalità che già sono presenti nelle aziende, ma d'altro lato anche individuare delle strade di collegamento che aiutino i giovani a avvicinarsi più con maggiori competenze al mondo della logistica e quindi avvicinarsi anche poi al mondo del lavoro. Ma come sarà la logistica del futuro? Sentiamo ancora il professor Giannini dell'Università di Pisa. La logistica del futuro, è un'attività che sempre più rientra in quello che si chiama supply chain management, cioè gestione integrata di tutta una sequenza di attività che hanno ampliato moltissimo l'attività logistica, perché di fatto ormai si va oltre quelle che erano le tradizionali attività logistiche, quelli che erano i tradizionali costi logistici, per andare ad analizzare molto in modo più integrato i rapporti a monte con i fornitori e a valle con i clienti, quindi anche in termini di servizi post vendita e di relazioni con i clienti. A proposito di futuro e logistica, nel marzo del 2018 alla Fiera di Padova debutterà Green Logistic Expo, una fiera dedicata ai servizi e agli equipaggiamenti concepiti nel segno della sostenibilità ambientale. L'annuncio è stato dato nei giorni scorsi. E sempre in tema di sostenibilità, secondo una recente elaborazione dei dati del Ministero dello Sviluppo Economico da parte del Centro Ricerche Continental, le emissioni di CO2 derivate dall'uso di benzina e gasolio per autotrazione a ottobre sono diminuite di 377.000 tonnellate, pari ad un calo del 4,5% rispetto allo stesso mese del 2015. Giovedì prossimo sarà completata la Salerno-Reggio Calabria, l'autostrada che per anni ha simboleggiato le arretratezze del sistema infrastrutturale del nostro paese, tra ritardi, inchieste e fatti di cronaca. L'atto formale sarà l'apertura della galleria Laria, in provincia di Cosenza. Dalla scorsa settimana sulla Salerno-Reggio Calabria si viaggia anche attraverso le immagini, quelle scattate da 11 fotografi lungo un tracciato che si insinua tra tre regioni e tanti paesaggi diversi, una varietà e una ricchezza spesso rannicchiata lontano dagli sguardi di chi transita sulla 3. La rassegna si intitola Verso il Mediterraneo ed è stata allestita da ANAS a Roma, nella sede dell'Istituto Centrale della Grafica accanto alla Fontana di Trevi. Resterà aperta fino al 14 febbraio il presidente di ANAS Gianni Vittorio Armani. Una prospettiva completamente diversa che affronta la Salerno-Reggio come un simbolo, come un'immagine, come un viaggio attraverso dei territori bellissimi. È una prospettiva completamente nuova che solo gli artisti ti possono aiutare a vedere, e però una prospettiva utile perché ripensare al nostro sud partendo dalla Salerno-Reggio Calabria è sicuramente un obiettivo importante. Con hashtag Autotrasporti oggi mi fermo qui, noi ci risentiamo lunedì prossimo, il giorno di Santo Stefano, questa quindi è l'ultima puntata prima di Natale. Mi porto un po' avanti, quindi buon Natale e nel frattempo buon pomeriggio da Andrea Ferro. Hashtag Autotrasporti, in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.